Allora, intanto ciao. E la prima cosa è forse presentarci, nel senso questo incontro lo gestiamo come compagne che da un po' di anni a questa parte, alcune di noi, fanno parte di un percorso di un percorso politico che nasce nel cuore della rivoluzione delle donne curde. Poi ne parlerò meglio. Siamo appunto fondamentalmente tre compagne dislocate in tre province calabresi diverse che in qualche modo stanno provando adesso ad attivare dei percorsi politici, un percorso politico di autonomia separata che parte appunto da questa ipotesi della genealogy e che però ci permetta di coinvolgere realtà sociali varie della nostra regione. A partire ovviamente dalle compagne. Ora voglio specificare che noi ci definiamo compagne asterisco, donne asterisco, nel senso che il percorso che facciamo a livello italiano, ma ovviamente concordato anche con le compagne curde, è un percorso inclusivo di tutte le soggettività oppresse sono state appunto costrette in una situazione di subalternità dalla nascita del patriarcato e quindi il nostro concetto di donne asterisco che poi ritroverete in questo opuscolo che racconta un po' quella che può essere definita la genealogy de noi altre. Nel senso il cammino che in questi anni dal 2017 questo gruppo di compagne italiane che lavora proprio all'interno di questo campo di analisi, ricerca e pratica che è la genealogy definita dal movimento delle donne curde si è data e quindi voglio dire se poi vi interessa c'è questo librettino dove in qualche modo traduciamo anche alla nostra maniera, a partire dalla nostra esperienza, di formazione e di pratiche, proprio questo percorso, questa pratica e teoria della genealogy. Allora, la genealogy che cos'è? Già la parola genealogy mette insieme due termini, uno curdo che è jin, che vuol dire donna, e logos, logia, che parola, discorso, ma anche scienza in greco. E quindi si definisce come scienza, in maniera anche un po' provocatoria, come scienza delle donne. Ma in curdo la parola jin condivide l'etimologia con la parola jian, che è la parola vita. Per cui in effetti genealogy vuol dire proprio scienza delle donne e della vita. È il cuore pulsante di quello che è il paradigma trasformativo, il paradigma proposto come processo rivoluzionario, quindi il cuore del confederalismo democratico, che nasce proprio da 40 anni di analisi, di decostruzione, di pratica del movimento di liberazione curdo. Ma è il cuore pulsante perché la liberazione delle donne per il movimento curdo è proprio il centro della decostruzione del sistema patriarcale, statale e capitalista in cui ci troviamo immerse e che da oltre 5.000 anni opprime e crea gerarchia e dominio in questo mondo fino al alle conseguenze che vediamo oggi. Per cui la cosa, vabbè, non la voglio fare lunga, però insomma l'altra cosa importante è che l'ipotesi rivoluzionaria curda non è un'ipotesi che con la nascita del confederalismo democratico, che riguarda soltanto un processo di liberazione e di autodeterminazione di questo popolo, ma che invece concepisce una possibilità di decostruzione del sistema in cui siamo immersi, che invece è a carattere mondiale. E questo ci dà il senso del perché noi, pur essendo italiane e calabresi, siamo e ci sentiamo gineologi e ci siamo definite, in maniera un po' ardita, le compagne calabresi di gineologi. Perché è una prospettiva, è un paradigma, un modello con tutti i limiti che possono essere visti in questo modo di parlare, che in qualche modo deve riguardare l'umanità intera, altrimenti, no, è un po' quel discorso che nessuno si libera da solo. C'è un processo di liberazione da appunto l'idra capitalistica può essere possibile solo se avviene a livello mondiale. E quindi il lavoro che il movimento curdo, il movimento delle donne curde sta facendo ormai da anni, è proprio quello, come dicono loro, di seminare, di mandare semi, di tessere reti rivoluzionarie, cioè trasformative, in tutto il mondo, con altri ovviamente soggetti collettivi che si identificano in questa necessità di dare trasformazione radicale di questo sistema. Radicale, ancora una volta, nel senso di andare alle radici del problema e quindi individuare, fare analisi e individuare delle soluzioni. Allora, la genealogy in fondo è questo, è la possibilità, l'idea di mettersi insieme, pensarsi capaci, a partire proprio dalle donne, asterisco, che sono state il primo soggetto oppresso dalla nascita del patriarcato 5.000 anni fa, per guardare il sistema di oppressione in tutte le sue, in come si è articolato in tutte le sue forme, e decostruirlo. Decostruirlo e proporre qui ed ora delle alternative possibili, le prime lanciando proprio delle funi che ci permettono delle corde, come si dice, dei fili che ci permettano di costruire una nuova trama che ci permette in qualche modo, da una parte, di autodifenderci come società che lotta e che resiste, no, contro le insidie del sistema, e nello stesso tempo individuare dei modi per poter vivere in un altro modo. Ovviamente all'interno di un processo che non è un processo immediato, non è la rivoluzione, diciamo, classica, no, della presa del potere, ma è invece un processo costante, continuo, di lavoro, anche, come dire, di formazione, perché non so se qualcuno di voi c'era stato nel seminario di Enrico, che parlava del confederalismo democratico. Le scorie, quello che diciamo il sistema, no, in questi 5.000 anni di nascita del patriarcato, quindi poi dello Stato e del capitalismo, ha messo dentro di noi, sono dentro tutti noi, ed è la maggior parte del nemico, quello che abbiamo. Ognuno di noi è portatore di questa, di un modo di vedere le relazioni e la politica, l'economia, che in qualche modo non ci permette di andare verso l'alternativa e quindi di vivere in tutt'altra maniera. Come spiegarvi il modo di lavorare proprio di genealogi? Per esempio, dove questa realtà, questa scienza delle donne sta trovando in questo momento il massimo della sua potenzialità, della sua applicazione, ovviamente è in Rojava, questa parte, diciamo, del Kurdistan siriano che dal 2001 è stato liberato, ha trovato modo di applicare appunto il paradigma del confederalismo democratico all'interno praticamente del disastro della guerra civile. Da questo momento sono sorte in Rojava scuole, accademie, cioè quella che è, diciamo, la prospettiva di questa nuova scienza, di questo nuovo modo di approcciarsi alla conoscenza, cui una delle cose principali è la rilettura della storia e nello stesso tempo la ripresa di saperi che sono dei saperi antichi, tramandati, cioè inventati e tramandati soprattutto dalle donne. E allora in Rojava la genealogia ha trovato il massimo dell'applicazione, sta trovando il massimo dell'applicazione e si sta diffondendo in tutto il mondo. Anche praticamente c'è un grosso centro di genealogi in Europa, ma anche in vari paesi europei, appunto, e anche in Italia. Il lavoro, diciamo, fondamentale che la genealogi fa è quella di andare a cercare, ad illuminare la storia, andando a ricercare nel passato quelle che sono le tracce di una società poi è stata oppressa, è stata costretta, è stata dominata dal patriarcato e quindi prima di tutto la società matricentrica che c'era prima dell'instaurazione del dominio patriarcale. E tanti saperi, perché adesso appunto grazie all'archeologia, all'archeomitologia e a tanti studi che anche fuori da genealogi emergono e sono venuti fuori, noi sappiamo di quale è stato la funzione delle donne, per esempio, prima della dominazione. Sappiamo che tante invenzioni sono state sono da attribuire proprio alla creatività e alla capacità femminile in una visione del mondo e in un sistema che era comunque incentrato su un'autorità naturale che era proprio quella delle donne. E su questa prospettiva le compagne, per esempio in Rojava, hanno avviato un progetto, adesso entro nella pratica perché sennò magari non si capisce bene qual è il modo di agire, la creazione di questo progetto, che è il progetto di Jinvar, che è il progetto, l'ecovillaggio delle donne. Qui è stata fatta per esempio una ricerca su quella che erano i materiali di costruzione e la possibilità di avere delle tecniche costruttive che fossero realmente ecologiche e che una volta venivano utilizzate, si utilizzavano anche qui, che erano i mattoni di fango crudo. Allora, invece di costruire con le tecniche, no, attuali del cemento e del cemento armato, la ripresa invece di quegli antichi saperi e la costruzione di case in questa maniera. La creazione di un centro medico, che però è un centro medico che non fa soltanto medicina, la nostra medicina, no? La medicina allopatica, usuale, ma che recupera quelle che erano le conoscenze delle piante e dell'antico modo, no, di curare delle donne della zona. E tradurre, no, sempre questo in nuovi, cioè in modi, no? Cioè in un recupero di tradizioni che ci permettano di svincolarci anche da quello che è invece la maniera anche dipendente, no? E assolutamente delegante che avviene nel sistema statale e capitalistico, in un'ottica di autodeterminazione e di autogestione, perché per esempio il villaggio è anche basato su un'organizzazione della politico-amministrativa che è legato proprio su un'assemblea gestionale che decide tutti i momenti della vita e lavora sul, cioè e si auto cioè fa agricoltura di sussistenza, quindi ancora una volta scardinando il sistema del commercio, della dipendenza, no? Da soggetti esterni che lavorano la terra e che, come dire, espropriano anche, ci espropriano dalla produzione, dalla possibilità e capacità di produrre il nostro cibo. C'è una scuola, anche lì un'accademia di genealogi Questo, diciamo, è un piccolo nucleo ed è esclusivamente abitato da donne e da bambini. Anche questo è un progetto, diciamo, sperimentale che lavora su un discorso di autonomia delle donne, in modo da poter individuare il modo per decostruire quella che invece è una vita che spesso dipende anche dalle figure maschili, che è spesso, cioè che è basata, no, su una delega molte volte del modo di amministrare le cose, che invece è quello dei maschi. Basta. Ho parlato anche troppo. Okay. Grazie, buonasera. Io vi leggerò in realtà un estratto da questo libro che è stato tradotto da alcune compagne asterisco del Comitato dei Genealogi, tra cui io, e che diciamo racchiude una serie di interviste che sono state condotte da delle compagne europee lì nei territori del Rojava, e nel tentativo, come introduceva già Rosalba, di riscrivere questa storia, quindi di agire praticamente in maniera rivoluzionaria. E quindi, diciamo, quello che aggiungo io, ha molto più senso leggerlo perché è la testimonianza di chi la costruisce, quella rivoluzione ogni giorno, e riguarda proprio l'impianto teorico, tra virgolette. È una teoria, è una parola molto diversa da quella che usiamo noi in Occidente. Però, diciamo, le pratiche rivoluzionarie che vengono alimentate da genealogi hanno anche un impianto teorico che, diciamo, secondo me, ma no, non solo secondo me, c'entra una serie di punti focali del dominio patriarcale, tra cui anche appunto la scienza e la tecnologia. E non mi dilungo oltre, vi leggo le parole di Eval Zilan e poi leggerò dei pezzi invece del Comitato di Redazione Europeo. La genealogy rivendica la realizzazione di una nuova configurazione delle scienze sociali, che è necessaria per costruire una società democratica di liberazione di genere ed ecologica. Proporre, generare e sviluppare la genealogy è in sé una critica e un intervento globale nei confronti delle scienze sociali. Salto. Ci sono centinaia di discipline nelle scienze sociali, ma questa divisione è stata creata dal potere in maniera assolutamente intenzionale. Non poter comprendere la vita nella sua totalità serve al capitalismo per manipolare la società, perché così la verità diventa irraggiungibile. Le pratiche scientifiche moderne condividono due metodi di lavoro che la genealogy critica. Uno è la frammentazione della scienza in diversi ambiti. Con questa si pretende di semplificare lo studio specifico, ma al tempo stesso se ne facilita il controllo. Sorge allora la domanda: chi sono i precursori delle scienze moderne e quindi del controllo che viene esercitato su di esse? Esistono decine di campi scientifici: psicologia, sociologia, biologia, archeologia, fisica, matematica, eccetera. Questi campi permettono la specializzazione e l'approfondimento, ma cadono nel paradosso di offrire una visione ridotta e parziale. Le scienze sono lo studio della vita e della società. Il risultato della divisione della scienza riflette a sua volta una divisione della vita. La vita viene spezzettata in più parti, diventa più controllabile. Allo stesso modo si riducono e frammentano le analisi e i risultati scientifici. La genealogy propone una visione olistica della vita, ovvero una scienza onnicomprensiva che possa dare risposte più complete ai problemi che si presentano. Il secondo metodo di lavoro delle scienze moderne, rispetto al quale la genealogy ha un approccio particolarmente critico, è la contrapposizione tra soggetto e oggetto. Il soggetto è la parte attiva del processo scientifico, quello che riceve le immagini del mondo, solleva un problema e cerca soluzioni, che poi esprime attraverso un giudizio. L'oggetto di studio è la parte passiva, che è a disposizione del soggetto perché quest'ultimo esprime i suoi giudizi. L'oggetto scientifico si trova spossessato della sua capacità di autodefinirsi e di esprimere giudizi su di sé. Esiste una relazione intrinseca di dominio tra soggetto e oggetto, che è stata divulgata e giustificata da molti dei cosiddetti padri della scienza moderna, tra virgolette, e che ha portato alla separazione totale delle scienze dall'etica, producendo innumerevoli aberrazioni in nome della scienza stessa. Francesco Bacone affermava che l'obiettivo dell'uomo soggetto fosse quello di dominare la natura oggetto attraverso la scienza. Tra virgolette, un citato: condurrò a te la natura con tutti i suoi figli per metterla al tuo servizio. La pratica scientifica moderna è al servizio del sessismo, del capitalismo e del colonialismo. Essa impone una visione ristretta ed erronea della verità, che diventa la nuova religione del nostro tempo. Pretendendo di combattere il fondamentalismo religioso, il positivismo diventa una forma di religione laica che non prende in considerazione né l'essere umano, né la natura come entità vivente, né l'etica. Le scienze positiviste ci sono state presentate come una presunta visione obiettiva che non si può confutare. Lo stesso avviene con i processi di soggettivazione delle scienze postmoderne, in cui il soggetto individuale, di solito bianco, maschio e di classe media, è la base di ogni conoscenza, esperienza e sviluppo e costruisce una verità individuale ed escludente. Neanche questa può essere messa in discussione. Entrambe le forme di conoscenza e analisi pongono le basi affinché la scienza possa essere utilizzata come strumento di dominio e controllo da parte dello Stato e del capitalismo. E riprendo un pezzetto di Eval Zilan. Nel sistema capitalista, nella sua logica della conoscenza, scoperta e conquista camminano insieme. Possiamo fare l'esempio della colonializzazione dell'India da parte degli inglesi. Nel XIX e nel XX secolo soltanto 5.000 inglesi governavano su milioni di persone indiane che da molto tempo prima abitavano quel territorio. La persona che riuscì a decifrare il sanscrito, Sir William Jones, 1746-94, era in realtà un giudice della Corte Suprema di Calcutta, imposto dal sistema coloniale che aveva conquistato l'India. Così il suo nome compare nei libri scientifici come il principale ricercatore e pioniere nello studio di questa lingua, anche se in verità era parte di una missione coloniale. E ora l'ultimo pezzo delle compagne europee. Le scienze moderne si presentano al pubblico come neutre, ma in realtà esiste sempre una relazione tra scienza e ideologia. Nel 1962 Thomas Kuhn argomentò questo legame tra scienza e paradigma nel suo libro La scrittura delle rivoluzioni scientifiche. Mi devo fermare? Sorry. Ok. converrebbe che magari mo lo finisco e poi glielo ritraduci. Lo fai sintetizzato. Scusate, riprendo dall'inizio dell'ultimo pezzo. Le scienze moderne si presentano al pubblico come neutro, ma in realtà esiste sempre una relazione tra scienza e ideologia. Nel 1962 Thomas Kuhn argomentò questo legame tra scienza e paradigma nel suo libro La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Il pensiero scientifico non può essere separato dalla filosofia e dal contesto sociale in cui si sviluppa. Ad esempio, Cartesio e Bacon, i precursori della scienza moderna, erano portatori del pensiero del loro tempo durante il pieno sviluppo del capitalismo moderno. La relazione tra scienza e ideologia è inestricabile. Quando la scienza ha fondamenta sessiste, stataliste e oppressive, partecipa all'espansione di questa ideologia e se ne nutre. Da una scienza che è il prodotto di un sistema oppressivo possono nascere solo strumenti di oppressione e non di liberazione. Per Auguste Comte e per il pensiero positivista, l'animismo non è riconosciuto come una forma di conoscenza umana, ma come il risultato di fatti accidentali. Nelle società naturali, a cui la maggior parte delle scienze sociali non fa mai riferimento o lo fa solo per etichettarle come primitive o selvagge, quando il volo degli uccelli si faceva agitato, le donne sapevano che si stava avvicinando una tempesta. Conoscevano le piante e le usavano per curarsi. Questi saperi erano il risultato dell'equilibrio tra l'intelligenza emotiva e quella analitica delle donne e della società. Ciao, buonasera a tutti, sono Gemma e sono contentissima di essere qua. Faccio un attimo a posto? Ok. Allora, sono state già dette una serie di cose e questo incontro sulla scienza delle donne per me è straordinario che sia dentro all'Hack Meeting. Chiedevo se fosse la prima volta che dentro l'Hack Meeting si riflettesse del dominio della scienza a partire o comunque attraversando la questione della donna dentro a quello che è il dominio della tecnoscienza contemporaneo. E quindi mi sembra sicuramente un'ottimissima combinazione e un ottimissimo intreccio. È un modo per mettere insieme saperi altrimenti abbastanza dispersi, attualmente ancora dispersi. Detto questo, io ho scelto, preparandomi in qualche modo ad oggi, a questa discussione insieme, riflettevo su come potevo intervenire, su cosa poteva essere interessante condividere, e abbiamo avuto la fortuna di condividere delle discussioni proprio prima di questa sera con le compagne che mi hanno preceduto, in particolare con le compagne su Cosenza, e quindi dalla condivisione di alcuni punti di discussione che sono stati già trattati, di discussione su genealogi con loro, ho scelto di procedere in questo modo nei 10 minuti in cui prendo la parola. Poiché la questione della tecnoscienza dentro al dominio capitalista è il cuore del dominio stesso, e poiché da un po' di tempo che provo a ragionarci da sola, a volte in compagnia molto più volentieri, io ho intrecciato la genealogy dentro ad uno studio, a volte in solitaria, dicevo, di critica della scienza. E ho avuto modo di comprendere dentro lo studio alla critica della scienza come la genealogy fosse un approccio nato dentro a dinamiche di lotta, dentro alla lotta, che aveva messo a fuoco in maniera così straordinaria la centralità del dominio della tecnoscienza dentro al potere del capitale e al dominio e alle dinamiche di dominio più generali di oggi. E per me è stato straordinario incontrare questa punta avanzata di ragionamento mentre, ripeto, stavo studiando la critica della scienza. Quindi dentro alla critica della scienza, la scienza delle donne, la genealogy, attualmente venuta fuori da un territorio in lotta come quello del Rojava e prendendo a riferimento diversi spunti di riflessione già avanzati altrove, è riuscita la scienza delle donne, facendolo in un territorio in lotta, a darci un contributo rispetto alla critica della scienza, della tecnoscienza di oggi, che davvero vale la gioia di prenderlo in considerazione sui diversi territori, quantomeno di portarci l'attenzione, così come è stato centrale nella loro lotta per l'autodeterminazione, è stato così centrale mettere a fuoco la critica alla conoscenza, o meglio alla critica alla tecnoscienza del capitale. Andremo a vedere un po' magari nella discussione come possiamo eventualmente distinguere la terminologia, ma anche solo per capirci, perché è una questione appunto di comprendere insieme delle parole che probabilmente utilizziamo, per esempio appunto quella di scienza, utilizziamo noi stessi in maniera neutra, come se fosse un campo di sapere completamente neutro, ma già quando nominiamo la scienza come autorità ultima che ci indica il cambiamento oggi, già siamo dentro a quella dinamica di dominio. E quindi che cosa... Sì, più lento? Sì, grazie, scusate. Quindi che cosa ho scelto di fare, dicevo? Poiché per me è il centro della questione per aggredire il dominio contemporaneo, a me carica di una rabbia che non riesco a controllare. Caricandomi di una rabbia, nel senso che coagula questa questione, tutta la rabbia che avverto per lo spacchettamento che ci circonda, per questa divisione di cui parlava Delfina, divisione di saperi, divisione tra i saperi e campi di saperi, che sono divisioni delle vite. Lei lo leggeva, io non lo ripeto, perché quelle parole sono già cariche della potenza che serve per affrontare una questione del genere. E quindi che cosa ho scelto di fare? Arrivo al dunque. Ho scelto, poiché sono questa carica per me è ingestibile di rabbia, mi devo muovere su registri narrativi di un certo tipo per riaccordarmi con quello che vorrei dire, e anche perché questa è una delle ragioni, e della ragione personale, quindi mi muoverò sul registro della poesia e il registro della fabulazione speculativa, o anche, per capirci brevemente, una storiella di finzione, se vogliamo. Mi muovo in questo registro, dicevo, uno perché altrimenti non trovo espressione se non troppo rabbiosa in un primo incontro. Forse non è neanche piacevole e non ha senso. O comunque in un incontro di discussione forse la rabbia può depotenziare la discussione stessa. Quindi mi muovo su questi registri per questa ragione, e anche perché avverto che per poter rompere i confini, gli argini di quel fiume di cui si parla, il fiume della conoscenza, il fiume della vita, vita, donna, per rompere quegli argini bisogna che, almeno io sento l'esigenza, l'urgenza di rompere gli argini tra i registri comunicativi, e quindi di rompere gli argini tra i campi di sapere, e quindi uno scritto che sia scientifico è considerato scientifico perché risponde a uno standard e a dei registri, rispetto ad altri che invece non vengono quasi contemplati neanche come saperi, o comunque vengono considerati saperi inferiori per noi stessi, laddove siamo davanti a una questione, a quella della verità. Probabilmente noi non pensiamo di poter trarre la verità o una verità da una narrazione di finzione. Pensiamo che, ed è anche così, sono piani diversi, ma rompere gli argini significa poter contemplare che la verità sta ovunque, e la verità è una questione che va anche quella, è una costruzione, è un qualcosa che si ci arriva insieme, non può mai essere un qualcosa che è lì, ce l'ha qualcuno e basta. E quindi io mi muovo su questi registri differenti proprio per poter avvicinarmi da una parte a autocontrollare l'espressione, e dall'altra per rompere, come dicevo, questi argini. Per cui io ho pensato che per affrontare i temi di cui stiamo parlando mi posso servire di questo tipo di registri, per cui leggerò leggerò quello che ho scritto e poi lascerei in generale la discussione, lascerei la parola alla discussione, non aggiungerei più nient'altro. E allora vado a leggere. Ok. Imbruttirsi mai, la scienza delle donne contro la religione del capitale. La religione del capitale, con le sue gerarchie e scale, tra saperi, merci, oggetti, per predatori, carnefici, simulacri e sacrifici, altrui. La relazione nell'attuale religione del capitale, tra oggetti e soggetti, soggetti al guinzaglio, presi dal dominio. Nel riflesso, nelle trame millenarie di questo rapporto, mi sono imbruttita per piacervi di più, per assomigliarvi, per assomigliare al mondo dell'uomo, per condividerne qualcosa, perché la condivisione è la mia arma di difesa, perché senza condivisione non c'è vita, e senza il mondo rimane. Nella divisione è sopraffazione, è ovunque l'uomo del dominio, nel dominio dell'uomo. La presenza vola via tra le pieghe dolorose di paure affamate per comodo altrui, per comando altrui. Ho sofferto e pianto di lacrime versate in utili altrui. Altre acque sono ora corse in me e sorgenti e cascate, riversamenti a gocce scavano sentieri. Sì, entra nel tempo, nelle tempeste che sono i cieli dell'avvenire. Sogni condivisi, gioiosi, di ombre danzanti contro gli abbaglianti, tra ombreggianti, luci illuminanti. Tra noi, oppresse e liberatrici, per la vita, per la creazione che distrugge il dominio. Tutto d'un fiato lesse questi versi mentre si era ritrovata davanti a un portone antico nel centro storico di un paese che un tempo si sarebbe detto del profondo sud. Questo perché infatti ancora in quella fase nord, sud, ovest, est avevano senso per qualcuno nell'orientamento e divisioni generali dell'epoca. Tuttavia il mondo era piombato in un unico monolite, o forse ne rimaneva un'unica immagine frattale tra le pieghe di alterità ormai andate, autobandite e autocensuratesi. Via via tutto ciò che apparteneva ad alcune sfere e aree del mondo, così come era stato conosciuto fino ad allora, era scomparso, distrutto, annientato e comunque sussunto e svenduto al mercato delle armi di ogni genere. Qualcuno ancora si chiedeva come era stato possibile rimpicciolire così il mondo, piallarlo così, renderlo così a portata di tasca e finalmente dominabili, e si andava, dicendo nella propaganda di regime, conoscibile per tutti, genere maschile, numero plurale, ma ridotto, ristretto, tutto, tutti, il tutto era finito sotto le mani di tutti, maschi, per lo più bianchi. Forse per alcuni, per comprendere meglio questa storia, bisognerà fare un passo indietro. Intanto che il mondo cresceva per numero di persone che lo popolavano e per luoghi conosciuti e colonizzati dalla specie umana, le altre specie iniziavano a estinguersi. La terra stessa si surriscaldava troppo in superficie e tra nucleo e crosta le distanze si accorciavano. E tra il paradiso in terra, glorificato dall'ideologia capitalista del progresso senza fine, e l'inferno di un tragico finale senza fine per la vita intera, il passo fu davvero breve. Tutto questo è accaduto nel giro di qualche millennio e poi, in qualche centinaio di anni, attraverso un'accelerazione e intensificazione dei processi fondativi della struttura contemporanea di dominio dell'uomo sull'uomo, siamo arrivati fin qui, fino a questa storia. Gli uomini sulla Terra avevano trovato il modo di autodistruggersi definitivamente, finalmente, direbbe qualcuno. Si riproducevano per cloni e tramite gli avanzamenti biotecnologici e cibernetici. Tutto questo non per tutte le persone, sia chiaro, ma volto il tutto all'autodistruzione, si decise per la soluzione finale da completare, portare a termine eliminando in primo luogo tutte quelle persone che ancora volevano vivere. E quindi liberarsi del capitalismo. E quindi risultava che erano degli invasati che volevano salvare il mondo. perché salvarsi dal capitalismo, dal sistema autodistruttivo, non poteva voler dire nient'altro che salvarsi insieme ad altri e altre. Insomma, chi non voleva essere, fare, clonarsi come maschio bianco, ed era possibile anche se si sceglieva di mantenere sembianze femminili o altro, doveva essere definitivamente eliminato, poiché costituivano la minaccia al fine ultimo, l'autodistruzione appunto. Le prime ad essere eliminate furono le donne e tutte quelle persone che avevano altri progetti per se stesse e per il mondo, tutte quelle persone che non volevano consegnarsi e pensare la vita in mano a degli uomini volti e proiettati al proprio profitto personale, costi quel che costi, e che, messi davanti all'evidenza che il modo di produzione e riproduzione del mondo dominante è volto e porta all'autodistruzione della struttura stessa che criticamente tiene in piedi, continuano imperterriti in questo stesso modo. Il tutto era in mano a questi pochi, tutti maschi, che si autoriproducevano ed erano ormai sviliti nella loro essenza più profonda di esseri umani. Questo racconto potrebbe durare all'infinito e comunque potremmo addentrarci in descrizioni dettagliate che diano un'idea dell'intimo svilimento dell'umana natura nella sua corsa all'affermazione come uomo del progresso infinito. Diremo solo che a causa della razionalità degli umani, che ingoia la ragione, l'equilibrio viene distrutto. Tutto questo, tornando alla scena iniziale della storia, davanti a quella scrittura, in quel luogo che era una porta aperta sul tempo, la persona in questione ricordava vite che non sapeva davvero se avesse vissuto o meno, ma al di là del ricordo vissuto no, erano vite di altre come lei e diverse da lei, che vivevano dentro di sé. Le sembrava tutto così chiaro. Le sembrava di vedere secoli di storia di dominio scorrerle davanti a ogni parola che leggeva, che sentiva, per ogni foglia che cadeva in terra e ogni albero abbattuto, per ogni raggio di sole che l'attraversava, il pensiero era il dominio in cui il mondo era preso e per la liberazione possibile. Non voleva pensare ad altro, voleva incontrare persone con cui ragionare su questo e scacciare la tirannia del capitale. Non voleva altro, voleva la vita, desiderava per la vita. Fissò il portone, si sedette, c'era solo una cosa che non riusciva a spiegarsi lì su due piedi. Erano tutte le persone pericolose state eliminate? Era mai possibile che era rimasta solo lei in quella porzione di spazio contro il dominio da cui rifuggiva e a cui resisteva? Se mai fosse stato così, significava che era venuta meno anche lei stessa, prossima quindi all'eliminazione fisica o peggio, resa docile e assoggettata. No, non era proprio possibile. Non era da sola. Si sedette, appoggiò la testa al muro dell'antica costruzione su cui la scritta si innalzava ancora e chissà per quale distrazione il potere non l'aveva notata. Arrivò uno sciame di donne, alzò gli occhi, le vide e senza dirsi nulla entrarono nel portone dove c'era quella scritta. Pensò che ne era sicura, c'erano anche loro, potevano iniziare. Si sistemarono nella struttura abbandonata e da lì riniziarono la battaglia. Ogni giorno si asserragliavano e trovavano il modo di liberarsi dai dominatori. Ogni momento dovevano reinventarsi e reinventarsene una di vita insieme contro il potere. Sfuggire al dominio consisteva proprio in questo, nella riscoperta continui di modi di stare insieme contrari alla logica della tecnoscienza binaria. Era notte fonda e tra la stanchezza e la gioia di essere lì si rese conto di essere in un sogno, che stava sognando del sogno condiviso. L'indomani si sarebbe svegliata, pensò ancora nel sogno, e l'incubo del mondo a dominio dell'uomo sarebbe ricominciato, sarebbe stato ancora lì. Era tempo di aprire gli occhi e sognare insieme. E quindi... Grazie. E nulla, io passerei direttamente la parola, perché ci sono già, secondo me, diversi stimoli. Ripasso la parola intanto a Rosalba. Sì, volevamo capire se qualcuno di voi voleva condividere con noi dei pensieri, delle suggestioni, delle domande, entrare più nel vivo rispetto agli stimoli che vi abbiamo un po'... capirne anche un po' di più, cioè abbiamo tentato di stringere al massimo. Vai. Cosa? Sono curiosa di sapere come si può contribuire da qui alla genealogy, cioè come si può portare il proprio contributo, o se è necessario farne parte per portare il contributo. Allora, la genealogy è una prospettiva di decostruzione, di analisi e di decostruzione. Quindi in qualche maniera cerca di raccogliere quelli che sono dei saperi che si pongono in maniera critica rispetto a quella che è l'ipotesi, no, di dominio del sistema, e guardare queste cose dal punto di vista, dalla prospettiva delle donne. Per esempio, nel campo della storia, andare ad illuminare quelle parti, no, che hanno completamente invisibilizzato la presenza della storia, a partire dalla preistoria fino ai nostri giorni. Quindi qualsiasi, credo di interpretare, no, qualsiasi possibilità, non so, per esempio Gemma, finora non fa parte della nostra, come dire, del nostro gruppo formato a livello italiano, no, di genealogi. Però in questo incontro abbiamo proprio pensato, capendo quello che lei effettivamente fa da anni come ricercatrice nel suo campo, come poter intersecare il nostro percorso e adesso provare insieme, no, a lavorare per esempio anche in delle ipotesi che sono le lotte, per esempio, di opposizione a quelle che sono, non so, adesso dico una cosa, beh, magari con Gemma non c'entra, delle grandi opere, no, o delle devastazioni che avvengono sul nostro territorio. Cioè l'idea è di guardare, no? Cioè di analizzare le cose a partire da una prospettiva che sia una prospettiva delle soggettività oppresse, e andare a cercare nei diversi campi, no, di indagine, proprio quest'altro modo di vedere. Non so, a me appartiene di più per esempio il discorso storico, allora vi dico solo un esempio perché mi viene da fare degli esempi. Allora, per esempio, dovevamo fare un laboratorio o comunque una comunicazione fra di noi all'interno di un campo di formazione sul discorso delle costellazioni e della lettura del cielo, no? Allora, voi sapete benissimo che la mitologia greca proietta, no? Ha proiettato nel cielo e tutto questo discorso, no? Di miti legati. Allora, da un punto di vista, per esempio, della mitologia, e c'è tutta un'ipotesi di genealogy che ovviamente è anche legata a tanta, come dire, a tanti studi che sono anche molto precedenti, che riguarda in qualche modo il passaggio, no? Cioè che la mitologia conservi delle tracce del passaggio tra quella che era la visione, no, e la civiltà matriarcale, e invece poi la come dire, il subentrare del patriarcato, e molte delle come dire, di quella che è il modo di vedere le donne, le dee, le figure femminili e l'interazione, no, con gli dei e invece il mondo maschile, riveli proprio questa lotta che c'è stata a un certo punto nella storia del passaggio, no, tra la necessità del patriarcato di distruggere, no, quella che era la mentalità e il modo, no, la visione del matriarcato. Rispetto alle costellazioni, allora, per esempio, non so, tutte queste donne, che ne so, le dee stuprate, no? E poi questa necessità, no, sempre del dio Giove, che poi insomma faceva parte della religione olimpica, quindi della religione di Stato, come dire, dominare, no, di porsi nei confronti delle donne, delle dee, delle altre dee, in una maniera seduttiva, di conquista, spesso stupro, no? Anche se noi poi diciamo che sono state sedotte, no? Quindi usiamo anche dei termini che non sono così pesanti. Però in questo discorso dello studio del lavoro sulle costellazioni ci siamo posti il problema se del rapporto tra donna e astrologia. astronomia. Siamo andate a cercare delle fonti anche archeologiche ed iconografiche e abbiamo trovato che forse il calendario non è venuto fuori come necessità per quelle che sono le successioni nell'anno delle varie fasi che poi portavano, no, a delle questioni della successione, no? Agricolo, ma siccome abbiamo trovato un'incisione in una grotta nelle grotte di Laussel in Francia di una figura femminile con un corno che rappresenta, vabbè, la luna con 13 tacche del 25.000 avanti Cristo, abbiamo ipotizzato che la necessità fosse invece un calendario creato per la successione del ciclo delle mestruazioni, del ciclo femminile e della necessità del parto. Quindi, come dire, in base a quelle che sono anche delle ipotesi, no, di lavoro e di studio, è andare sempre a cercare questa prospettiva per guardare, no, per allargare e per togliere dall'invisibilizzazione quella che sicuramente è una storia ben diversa da quella che gli uomini ci hanno raccontato. Io prendo il microfono perché la domanda, come ogni domanda, ti solleva una serie di riflessioni. Rosalba diceva, io non faccio parte del comitato di genealogi, ma ed è così. E sottolineerei anch'io questo, che non credo in nessun modo che per praticare la scienza delle donne sia strettamente necessario farne parte. Senz'altro più si allarga il cerchio, mi sento di dire, e maggiormente si riesce ad accordarci, a raccordarci attorno a dei punti in comune, a una progettazione in comune. In ogni caso io incontro la genealogia, lo ripeto, mentre studiavo la critica alla scienza. E quindi per comprendere quali erano i tentativi della critica alla scienza contemporanei, a una certa mi sono chiesto, ok, ma la critica della scienza oggi chi la fa? Dov'è sta critica della scienza, della tecnoscienza, da dove viene? Ci sono vari spunti interessanti, singolari per lo più. Quello della scienza delle donne, dei genealogi, è un approccio di critica alla tecnoscienza che pone la critica al dominio, pone la conoscenza al centro della critica del dominio. Quindi prendendola così di petto, ed è impressionante, leggevo sul libro che citava Delfina, da cui ho preso qualcosina, dei piccoli passaggi, letto con un entusiasmo enorme, ci sono dei passaggi che mettono a fuoco questo. Quindi per intervenire, per condividere diverse pratiche che nascono dalla scienza delle donne, dicevo, trovato straordinario dalla lettura che è stato in qualche modo la scienza delle donne, la genealogia non può che venire dalla lotta, no? Proprio dal territorio di lotta, avendo centrato il fuoco sulla conoscenza, ed è straordinario che venga formalizzata nelle carceri. Per lo più io leggevo sul libro che la formalizzazione, cioè perché formalizzazione forse è un termine che va a contro quello che si è tentato di fare, quindi nelle carceri, certamente loro erano in lotta, nelle carceri hanno messo in piedi l'impianto teorico dallo studio. Allora per me questo è impressionante, che persone rinchiuse abbiano compreso meglio di chi sta fuori, impressionante, ma ecco, non mi stupisce fino in fondo, hanno compreso quanto fosse centrale la critica della scienza dentro alla critica al dominio. Intanto questo, e per andare sul pratico, quindi io non faccio parte di genealogi, ne vorrò far parte, ma mi sento di farne parte, e secondo me io mi rispondo così quando mi chiedo, ma io che potrei fare in questo senso, è così centrale, ma io come si può fare? Intanto unendosi, comprendendo l'importanza di quanto i saperi, la produzione e riproduzione di sapere è importante in ogni dinamica di potere, e noi siamo continuamente immersi in dinamiche di riproduzione di sapere, e di conoscenza. Allora, mettendosi insieme, dando l'attenzione dovuta a questo, perché io credo che intanto è una questione di attenzione da portare, perché ancora io credo che non sia così centrale in generale nella critica al dominio tecnoscientifico, ma in generale del dominio capitalista. E quindi intanto riportare l'attenzione al fatto che la conoscenza e la conoscenza declinata a tecnoscienza è la scienza del capitale. E se vogliamo andare contro, questo va messo bene a fuoco ovunque siamo, anche solo con una battuta a scambiarci il fatto che ma questa però è la verità del capitale, per quanto poi probabilmente è una verità che può essere analizzata, capita che cosa c'è di utile in quello che viene trasmesso. E ancora, per me, in base alle vite che ognuno trascorre, in questa frammentazione e divisione in cui siamo costretti quotidianamente, ognuno nei propri ruoli, ognuno, e quindi ci si cerca di liberare da questa frammentazione. La frammentazione dei saperi è la frammentazione che vediamo. Questo è. Allora, in questa frammentazione, senz'altro ragionarci insieme e provare ad aggredire, lo dicevo prima come proposta, provare a iniziare ad aggredire i luoghi del sapere con altri discorsi, portarceli dentro. Aggredire significa, per me potrebbe significare tante cose, ma intanto significa presidiare i luoghi del sapere con altri discorsi. Provare a mettersi insieme, con banchetti, che mettano insieme però, che mettano insieme tutto quello che è già frammentato. Quindi se dentro a un territorio c'è una critica, c'è un passaggio, c'è qualcuno che sta dedicando del tempo alla critica in termini ambientalisti, ecco, lì bisogna portare la scienza delle donne. Lì bisogna che in qualche modo si parli sull'approccio a cui quella spinta al cambiamento verso un altro rapporto con la natura o con tutto il circostante è possibile, un altro modo di vedere, e incrociare i percorsi. E quindi, perché no, provare a pensare di fare ragionamenti sulla scienza delle donne attorno ai luoghi di sapere, ovunque, ma attorno ai luoghi di sapere, per andare in contrasto. Voglio dire soltanto questo, che uno dei campi fondamentali di genealogia è la riscrittura della storia, ma la riscrittura della storia anche nel senso della ricerca di lotte e resistenze. Ora, per esempio, mi pare che tu hai a che fare con una lingua, cosiddetta di minoranza, no? E allora anche qui bisognerebbe capire che cosa vuol dire maggioranza, che cosa vuol dire minoranza, che cosa vuol dire invece la diversità, no? Sui territori. Allora, fare genealogy è anche questo, cioè è cercare la permanenza e rafforzare la permanenza delle resistenze e vederle in una prospettiva sempre di lotta e connetterle insieme. Allora, diciamo, tutto quello che è stato detto mi fa venire in mente migliaia di considerazioni, a partire dalla narrazione che ci ha fatto Gemma, che mi fa venire in mente un amatissimo libro di Doris Lessing, di questa società di donne che si riproduceva per partenogenesi. Ma la cosa che, ecco, a proposito proprio il mio impatto personale con la scienza è avvenuto in questi ultimi anni, perché sono cresciuta a una certa età, quindi mi sono, diciamo, ho vissuto gli anni del femminismo dagli anni 60 in poi, e un principio che sempre abbiamo rivendicato è quello dell'autodeterminazione sui nostri corpi. Gli anni del Covid e l'obbligo vaccinale mi hanno fatto non solo scontrare un'ulteriore sofferenza personale, quindi ho subito la violenza del potere o la pretesa di violenza sul mio corpo, anzi sulla mia vita, perché io ho rifiutato di vaccinarmi, ero obbligata a farlo e quindi sono stata esclusa da migliaia di attività per fortuna non lavoravo più, almeno non ho perso la fonte di reddito, molti e molte come me invece l'hanno persa, ma la cosa che più mi ha ferito è stato il tradimento di tante compagne con cui avevo fatto anni di percorso in nome dell'autodeterminazione sul mio corpo. Quindi questo, per esempio, per me è una cosa che ancora brucia fortemente. Grazie per questa presentazione. Io volevo sapere se c'è una riflessione, ha detto che Gin vuol dire donna e vita, e volevo sapere se c'è vita e se c'è una riflessione sulla concezione della vita che quindi possa andare contro le diverse concezioni filosofiche che sono dagli uomini sulla vita, e se questa concezione della vita è per forza legata alla produzione. E quindi sapere anche qual è la visione rispetto alla produzione, alla riproduzione. Io volevo, così mi hai fatto venire in mente una risposta secca, però magari poi Gemma amplia la riflessione. Comunque all'interno del libro, ma in altre testimonianze, racconti e condivisioni che ci vengono dal Rojava, la persona rivoluzionaria che attivamente si spende nella costruzione di questa liberazione, nella difesa della terra, sono persone che non hanno relazioni sentimentali, proprio perché c'è un'analisi approfondita di quanto sia viscerale il rapporto di dominio all'interno della famiglia eterocispatriarcale, e che quindi a partire dal presupposto che questo impegno rivoluzionario continua a vivere all'interno della società, quindi ci sono comunque famiglie, ci sono persone sposate e per quello che io ne sappia, io non ho mai attraversato quei territori, spero di farlo, però diciamo il livello culturale dominante è di un binarismo molto più feroce, molto più in cui è stata anche assente, se vogliamo guardarla a partire da questa prospettiva, la lotta portata avanti al movimento LGBTQIA+, che invece ha avuto luogo in altri territori, nei territori anche nostri, in altri territori occidentali. E quindi sicuramente è una delle questioni più complesse, però essendo che per loro, cioè parlare di politica vuol dire parlare anche di universo e quindi di coesistenza all'interno di un equilibrio che non è solo del pianeta Terra ma dell'intero sistema solare, certo che questo è uno dei temi più critici, per cui si cerca di affrontarlo in maniera sempre, come abbiamo visto prima, olistica, quindi non c'è una verità, un compartimento, e le persone che decidono di fare una militanza che preclude loro di avere una vita di coppia o una vita romantica non sono in conflitto, in guerra con chi invece decide di farlo pur volendo portare avanti la stessa rivoluzione, però diciamo questo è il livello massimo che si può raggiungere in quel contesto attualmente rispetto al sottrarsi da questo tipo di dominio quotidiano e feratissimo, e contestualmente però appunto attraverso anche la genealogy, semplicemente attraverso un movimento che ha questi principi saldi rispetto a un'ecologia che non riguarda, non è un'ecologia specista, non è la salvaguardia dell'essere umano perché è la specie dominante, anzi, quindi capovolgendo questo principio viene meno anche il principio della piramide, della gerarchia familiare. La smetto perché io non avrei molto altro da aggiungere, presa esattamente così, ma tu chiedevi principalmente, se ho capito bene, qual è l'approccio rispetto alla riproduzione in termini di riproduzione della vita in termini biologica, no? Ok. Infatti stavo andando lì, mi sembrava che stessi andando lì, e stavo andando lì ad aggiungere quello che diceva Delfina, che mi sembra tutto quello che sta, tutto quello che accade, cioè come viene praticata la scienza delle donne nell'ambito dei rapporti familiari, per lo più, e dei rapporti interpersonali, e che implicano eventualmente una questione di riproduzione biologica. Ecco, infatti io sarei ripartita da lì dicendo che la questione della riproduzione della vita, per quello che ho potuto capire io, è una vita in senso più ampio, che senz'altro tiene presente ancora una volta la divisione che tu che stavi sottolineando, e forse non si è sentito perché eri senza microfono, tra zoo e bio, però senz'altro, però la vita non è, non, la vita a cui si fa riferimento è intesa nel senso più ampio di entrambe, o quantomeno è un tentativo di rimettere insieme la divisione tra zoo e bio, e vita non come dato biologico, così come il sesso non come dato biologico, ma riproduzione della vita inteso nel senso più ampio. E quindi produzione e riproduzione della vita dentro, io lo calo per comprenderlo meglio, dentro alla produzione e riproduzione del mondo capitalistico e del modo capitalistico. E quindi intanto superare questa divisione, con tutto quello che già diceva lei, però a monte è un'idea di riproduzione della vita che non mi sembra abbia il fuoco sul concetto di vita come bio. Posso riportare non alla lettera però le parole di una compagna che vive in Kurdistan ed fa parte del popolo curdo, e a proposito del concetto di madre, purtroppo non ricordo i riferimenti filmografici da darvi, però ricordo che interrogata rispetto alla questione concreta, diciamo, della maternità, relativa a un discorso molto collegato alla madre, sia come aspetto spirituale, sia come aspetto sociale di quando viene fatta menzione e recuperato il sistema matrilineare, in che maniera tutto questo rimane coerente con il fatto che molte donne in Kurdistan decidono di non essere madri. E questa compagna curda risponde che essere madre non significa aver generato dalla propria vagina una creatura, ma significa essere madre, cioè significa avere quella potenzialmente, o comunque quella sensibilità per cui ti prendi cura, ti dispiaci, rimani ferita o ti senti responsabile se succede qualcosa a una creatura che ha bisogno di protezione. Questo dicono loro essere madre, e che è assolutamente, stravolgente più che rivoluzionario, perché rispetto al nostro poi alla nostra capacità di privatizzare tutto, anche il fatto di avere una figlia o un figlio, loro, secondo me, con parole semplici ti riportano alla realtà di che vuol dire amare, di che vuol dire prendersi cura, di che vuol dire essere mamma o papà o insomma la persona adulta che avvia un processo di interconnessione con una persona più piccola che sta crescendo. E anche su questo ci sarebbe da approfondire, da riflettere insieme, perché c'è la possibilità di pensare altro e quindi piano piano cominciare a praticare altro, però è un lavorone. Stiamo chiudendo in chiusura, c'è qualcuno che voleva dire qualcosa al volo? Tu? Vai. Parentele tra specie. E questo forse richiede forse un pochino di tempo in più di 2 minuti, decidiamo insieme se vogliamo attraversarlo subito, magari tornarci, però io al volo, nel frattempo che riflettiamo, perché in effetti è un punto cruciale, velocemente l'intervento su Covid, emergenza Covid al volo, perché è centrale questa cosa, cioè quello che noi abbiamo attraversato nella fase di emergenza Covid è stato, per quanto mi riguarda, intanto dopo aver studiato per un po' di anni con altre persone in solitaria, come diavolo volete, la questione del rischio, della gestione del rischio, e la questione del rischio oggi è centralissima, è il centro del discorso del dominio della tecnoscienza, per cui la pandemia è stata gestita totalmente, ci è ricaduta addosso, non siamo stati capaci assolutamente, ma è forse prevedibile, di reagire, di agire, ma ci è calata dall'alto totalmente la gestione del rischio della tecnoscienza, che prevede che parla solo la scienza non si era capito chi è, chi, cosa e perché, e è stato, come dire, davvero un dominio senza alcuna opposizione generale. E quello ci deve far riflettere di come le questioni, senza nessuna opposizione, ci sono state, dico, una forte risposta. Ognuno probabilmente ha risposto resistendo con delle pratiche che ha potuto mettere in campo nel proprio territorio, riuscendo a radunarsi, riuscendo a fare delle cose, però quello che è certo è che la pandemia ci ha fatto vedere, se ci riflettiamo sopra, qual è la gestione, il come il dominio gestisce in generale tutte quelle questioni su cui la scienza si dice non essere in accordo, e la scienza è in disaccordo e arriva continuamente a verità in maniera progressiva. La scienza, se scienza, è in disaccordo, ci si accorda su alcune cose, ma tutto quello che viene spacciato per la scienza dice questo ma non ne siamo sicuri, è assolutamente, e ci dobbiamo basare sulla scienza proprio perché non siamo sicuri e neanche la scienza ce lo può dire, è senz'altro la tecnologia di dominio principale. E sicuramente ci siamo finiti con tutte le scarpe e ne stiamo ancora pagando le conseguenze. Ci hanno chiesto di chiudere, vogliamo, io per me va bene. No, era solo una cosa per aggiungere a quanto hai detto. Io credo che la domanda era la maternità è legata solamente alla continuità della specie umana, ma non si parla mai di come in realtà dovremmo prenderci cura senza pensare a quanto siamo prossimi ad altri esseri viventi, quindi volevo solamente dare questa suggestione.